451. Sformato di zucchini passati. Zucchini grammi 600, parmigiano grammi 40, uova numero 4. Fate un battuto con un quarto di cipolla, sedano, carota e prezzemolo. Mettetelo al fuoco con olio e quando avrà preso colore versate gli zucchini tagliati a tocchetti conditi con sale e pepe. Allorché saranno rosolati, tirateli a cottura con acqua, passateli asciutti dallo straccio ed aggiungete il parmigiano e le uova. Fate una balsamella con grammi 60 di burro, 2 cucchiaiate di farina e 4 decilitri di latte. Mescolate ogni cosa insieme e servendovi di uno stampo liscio e bucato, cuocetelo a bagnomaria. Sformatelo caldo, riempite il vuoto con un umido delicato e servitelo. Questa dose potrà bastare per 8 o 10 persone.